gettoni come un vecchio lasso maledetto l'arcanzia sta male il suo solito male nostalgia all'infernatia ripensa alla sua vecchia Cornovania e alla madre lontana che l'aspetta terra maledetta questo occidente nuovo alla malaria gialla loro veleno in sangue a chi lo guarda dollari 10 e 90 al 100 ante regina alla regina sacramento australiano d'inferno lei non vince mai quanto sono tre presente troppo perso goodbye ragazzi vi si volta là a ballare son pazzi io non ballo con uomini ti pare è giusto vieni fine se decisa per me Ho capito che siete il preferito. Sigari a tutti! Arre! Arre! Nick, che ti ha detto? Ma se ho ben capito, voi siete il preferito. Whisky per tutti! Ragazzi, v'annunzio Jake Wallace, il cantastorie del campo. La mia mamma, che farà se io non moro, se io non moro?

tutti buona notte. Cosa c'è? Offrenini! vado meglio. You will find us, Mario.

son messo in cammino. E tratto sol dal fascino dell'ora, e questo in sole non m'ha ingannato, giocare il vostro nome. forse che qui si sa il nome della gente. Johnson! E poi? Vengo da Sacramento! Impegnato fra voi! Johnson di Sacramento! Grazie! Vi ricordate di me? Sì, se anche voi mi ricordate. E come non potrei, fu bel sentier che vena m'offrei. Fu nel tornare, offriste un primo di Gesorino. E poi vi dissi, andiamo a coglierle. Dentro che balla come il pan di Pelofino, giunto da Sacramento. Lascia. del peggiore. Hanno appeso a me e son morto. Figlio di cane, mostraci la tua lumina faccia. Tu sei con Ramirez? Un fuggito lo chiamo. Se volete vi porto sulla sua traccia. Questo sudicio ladro ci danna. No, non mi inganna. Conosci l'assondiglio? È poco più d'un miglio alla madrona cagnara. Vi mostrerò la strada e nomi di mia madre, Maria Saltata. Giuro che non mi inganno. Se volete vi porto. Li pianterò nel dorso la mia navata. Si va e annuvolato avremo la tormenta. E buon colpo si tenta. A cavallo, a cavallo. Non è preso e nel fallo. Dove si va, dove si va? Si insegue la linea. Bastano a guardare tesoro. Al guardiente! Mi sono lasciato prendere per sfidarli. Mi seguono nel bosco i nostri. Resto a dredi un fischio. Se c'è il colpo, col fischio rispondete. Quest'uomo sa la traccia di Ramirez. Ora via! Mm-hmm. Sarà questo fischio? in quel barile Johnson c'è un tesoro, ci ripongono loro ragazzi. E vi lasciano così. Nonni no, io rimango qui a vegliarlo, a pulla un po' per uno. Sto notte, sto notte, saluto nella vostra